Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto. Radio Ernica, FM 105 900, www.radioernica.com. Aprile 2021. Per i cattolici di tutto il mondo è il giorno di Pasqua. Dalla Basilica di San Pietro, Papa Francesco celebra la messa solenne che chiude i riti di questo periodo liturgico. A mezzogiorno il Pontefice impartisce la benedizione Urbi et Orbi. Anche quest'anno, a causa della pandemia, la grande piazza racchiusa dal colonnato del Bernini è deserta, mentre milioni di persone ricevono l'indulgenza plenaria attraverso il complesso sistema di radio, televisione e internet gestito da Vatican Media, la struttura della Santa Sede oggi deputata a diffondere attraverso le varie piattaforme mediatiche la voce del Papa. Mentre molti di noi ascoltano le parole del Pontefice comodamente seduti davanti a uno schermo nel salotto di casa, in molte parti del mondo, sia per carenze infrastrutturali che per ragioni di censura politica, tante persone sono in ascolto nella maniera più tradizionale. Con l'orecchio incollato a un apparecchio radio a onde corte, magari alle prese con difficoltà di ricezione dovuta ai capricci della propagazione o al jamming, stanno ascoltando la Radio Vaticana. E benedizio Dei Onnipotenti. E che a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Acabamos de receber a bênção Urbi et Orbi, a cidade de Roma e ao mundo, com a indulgência plenária, como precedentemente ressaltada pelo arcipreste, o cardeal Mauro Gambetti, a indulgência plenária na forma estabelecida pela Igreja. Dal centro trasmittente di Santa Maria Galeria alle porte di Roma, la Radio del Papa sta trasmettendo la cerimonia su quattro diverse frequenze in onde corte, con traduzione e commento in simultanea in inglese, francese, portoghese e arabo. In un mondo ormai dominato dalle tecnologie digitali, questo mezzo può apparire anacronistico. Eppure il moderno apparato comunicativo della Santa Sede ha avuto origine proprio dalla radio. Il 12 febbraio 1931, poco più di 90 anni fa, è un Guglielmo Marconi, palesemente emozionato, a consegnare a Papa Pio XI e alla storia il primo trasmettitore della Radio Vaticana, i cui impianti sono ubicati all'interno del piccolo territorio della Santa Sede. Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio dello Stato della Città del Vaticano. Le onde elettriche trasporteranno in tutto il mondo, attraverso gli spazi, la sua parola di pace e di benedizione. Per circa 20 secoli, il pontefice romano, ha fatto sentire la parola del suo divino magistero nel mondo. Ma questa è la prima volta che la sua viva voce può essere percepita simultaneamente su tutta la superficie della terra. Per la prima volta la voce del Papa attraversa in tempo reale enormi distanze e l'emozione suscitata è enorme, come ricorda Monsignor Louis Picard, importante presole belga, per molti anni a capo della locale Azione Cattolica, nonché fondatore e organizzatore della Radio Cattolica in Belgio. Leggiamo sull'Osservatore Romano e l'Illustrazione Vaticana gli echi dell'enorme emozione prodotta in tutto il mondo dalla parola papale. Si sono avute scene di entusiasmo in migliaia di chiese, conventi, sale pubbliche e in un numero infinito di case private. I credenti hanno ascoltato il messaggio del Papa con grande emozione. Si inginocchiavano, spesso senza riuscire a trattenere le lacrime, mentre ricevevano la benedizione apostolica. I non cattolici non potevano non ammirare il maestoso significato di questo programma radiofonico. Il capo e il dottore supremo di una chiesa diffusa su tutta la superficie della terra che parla nello stesso momento a tutti i suoi fedeli. Lo abbiamo ascoltato ovunque nello stesso momento. Lo abbiamo ascoltato chiaramente agli antipodi, come nelle regioni più vicine. Qui è necessario rinunciare a calcolare il numero di ascoltatori cattolici e non che hanno ascoltato con interesse e rispetto le sue parole. La Radio Vaticana è stata sviluppata sotto la direzione dell'inventore Guglielmo Marconi. È stato lui che così magnificamente rappresenta scienza e genio inventivo, che ha passato il microfono al capo della Chiesa Cattolica, invitandolo a parlare al mondo. La storia non dimenticherà questo momento. Succedimus in loco principis apostolorum, eorum lente, quorum doctrina et predicatio, iussu divino, ad omnes gentes et ad omnem creaturam destinata est, et epi primi in loco ipso, mira sane ope marconiana, uti frui possumus, ad omnia et ad omnes, primo nos converti. Dopo una prima fase sperimentale, la Radio Vaticana affina sempre di più la sua missione di portavoce del Papa. Negli anni successivi è anche attraverso questo mezzo che lo Stato della Città del Vaticano sviluppa la sua politica estera. Il prestigio e l'autorità morale del Papa sono universalmente riconosciuti e le cancellerie di tutto il mondo attivano un costante servizio di monitoraggio delle trasmissioni nelle varie lingue nazionali, pronte ad approfittare a scopo propagandistico dei contenuti, oppure, in caso di commenti o notizie sgradite, protestare con veemenza presso la Segreteria di Stato. Alla fine degli anni 30, le tensioni e le contraddizioni mai risolte dalla fine della Grande Guerra sfociano in un nuovo conflitto globale, ancora più sanguinoso e devastante del primo. E la Radio Vaticana, emittente di uno Stato neutrale ubicato nel cuore di uno degli Stati belligeranti, si troverà in una posizione assai precaria. in bilico tra garanzie diplomatiche sempre più labili e la concreta minaccia di distruzione da parte delle forze occupanti. Un periodo difficile e allo stesso tempo epico per la Radio del Papa, che ricostruiremo insieme a Raffaella Perin, ricercatrice di storia del cristianesimo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Scienze Religiose di Brescia, che nel 2017 per i tipi di Il Mulino ha pubblicato il saggio La Radio del Papa, propaganda e diplomazia nella Seconda Guerra Mondiale. Esiste un preciso momento in cui il Vaticano comprende la necessità di dotarsi di uno strumento comunicativo potente come la radio? Dunque, diciamo che i primi colloqui tra il cardinal Pietro Gasparri, che è il segretario di Stato di Benedetto XV, e Guglielmo Marconi avvengono già durante la Prima Guerra Mondiale, quindi molto prima di quanto si pensi tradizionalmente. Questi colloqui però vertono soprattutto sulla possibilità eventuale della costituzione di una radio, sì, ma ancora non si parla di radiofonia, perché come forse gli ascoltatori sanno, la radio nasce e si sviluppa soprattutto appunto in piena Prima Guerra Mondiale come mezzo di comunicazione in battaglia. E quindi Benedetto XV ha questa intuizione, perché effettivamente per la Santa Sede un mezzo come questo può essere utilissimo, perché poteva comunicare molto più velocemente con la periferia della cristianità, quindi con i vescovi, con i nunzi apostolici sparsi nel in giro per il mondo. Quindi insomma è inizialmente l'idea è quella appunto di un mezzo di comunicazione veloce. In quel momento però, come noto, i rapporti formali tra lo Stato italiano e la Santa Sede ancora non ci sono, e quindi il progetto, diciamo, che cade così com'era nato, era solo un colloquio, ma che poi non ha trovato inizialmente una realizzazione, ecco. Ci vorrà ancora del tempo, quindi diciamo cominciano di nuovo i colloqui nel corso degli anni 20, ma è soltanto dopo la firma dei patti lateranensi che si potrà effettivamente costituire una stazione radio in Vaticano. E il regime fascista pretese dal Vaticano delle garanzie per consentire l'installazione di questa nuova emittente? Allora, è interessante questa domanda, perché allora sì, dunque, nel senso, c'è questo patto, questo concordato che viene firmato tra la Santa Sede e lo Stato italiano nel 1929, ma soprattutto c'è il trattato che fa parte appunto dei patti lateranensi assieme alla convenzione finanziaria, e in questo trattato ci sono anche delle clausole che riguardano la possibilità per la Santa Sede di comunicare con appunto i vescovi nelle diocesi del territorio nazionale. Per comunicare ha bisogno anche appunto del telefono, della radio, eccetera. E quindi viene garantita la possibilità alla Santa Sede di poter comunicare con la propria gerarchia ecclesiastica. E naturalmente, diciamo che, come dire, banalmente è una questione di fili elettrici che passano in territorio italiano, e quindi era necessario che si facesse questo patto. Ed è quindi proprio, come dire, è soltanto dopo la firma di questi patti che è possibile realizzare una stazione radio in Vaticano, perché molto semplicemente viene costituito lo Stato Città del Vaticano, quindi la Santa Sede ha un territorio dopo decenni, e dopo che appunto con la questione romana si era vista, diciamo, sottrarre dallo Stato italiano la capitale, ecco, il centro della Romania. La radiofonia italiana era nata da pochi anni, nel 1924, e si andava sviluppando proprio in quel periodo, quindi si può dire che anche la Radio Vaticana si sviluppa di pari passo rispetto alla quella che poi diventerà l'EIAR. La realizzazione di questa importante opera fu affidata a Guglielmo Marconi, quello che viene considerato come l'inventore del wireless, e che notoriamente era molto legato a Pio XI. Infatti il 12 febbraio 1931, poco più di 90 anni fa, fu proprio Guglielmo Marconi a presentare al mondo il Papa, che da lì avrebbe iniziato a parlare attraverso la radio. Dalle testimonianze dell'epoca, anche della figlia Elettra Marconi, risulta che il Papa fosse molto legato agli aspetti tecnici dell'opera che si stava realizzando. Può parlarci del rapporto tra Marconi e Pio XI e come si sviluppò successivamente? È noto che Guglielmo Marconi fosse molto cattolico e anche legato in un certo senso a Pio XI. Credo siano diverse le udienze che Pio XI concede a Marconi, non soltanto per parlare della Radio Vaticana, ma anche penso per questioni personali. Naturalmente è interessante, no? È anche emblematico il fatto che sia proprio l'inventore della radio a costruire Radio Vaticana. Questo ci dà anche, insomma, un po' l'idea di quanto importante fosse questa realizzazione, anche solo per questioni, diciamo, legate alla tecnica, alla tecnologia, perché Radio Vaticana nasce e come dire, può usufruire subito delle migliori tecnologie nell'ambito, diciamo, radiofonico. Ecco, quindi credo che questo sia molto importante. Poi credo che su internet siano anche disponibili alcuni video di alcuni discorsi di Pio XI alla radio, in cui si vede anche Marconi. E Marconi riconosce anche il fatto che, insomma, per la prima volta con Radio Vaticana la voce del Papa venisse ascoltata simultaneamente in molte parti del mondo. Ecco, quindi io direi questo sul loro rapporto. Poi è interessante anche in realtà il rapporto di Pio XI con le onde. Perché proprio c'è in uno di questi discorsi che si possono appunto trovare su internet, si vede il pontefice che parla delle onde, di queste onde che tutti odono ma che nessuno vede, quindi anche questa meraviglia verso queste forze misteriose che governano, che fluttuano, no, nell'aria, anche se nessuno le può vedere. Qui comincia con una qualche soddisfazione di quel desiderio che poc'anzi le esprimevamo. Le chiedevamo di darci qualche senso, qualche esperienza o esperimento del come ella e da quali agguati della scienza ella sorprenda il cammino di queste onde che nessuno vede, nessuno ode, resta tuttavia, resta intera la nostra curiosità, il nostro desiderio di sapere come mai la mente umana veda, per così dire, veda d'una visione così distinta, misuri con misurazioni così esatte quello che l'occhio non vede e che la mano non raggiunge. Nel corso degli anni 30 il Pio XI concordatario, constatata l'impossibilità di convivere su un piano di parità e rispetto coi regimi totalitari, ne mette più volte in risalto il carattere antireligioso e anticristiano. La Russia bolscevica non è più il solo nemico del cristianesimo, e l'enciclica in tedesco Mit Brennender Sorge segna un punto di rottura con il passato recente della politica vaticana. La Radio Vaticana in quale modo segue questa evoluzione e che impostazione hanno i suoi programmi in questo periodo? Dunque, è una domanda molto ampia, nel senso che se mi concedi qualche minuto vorrei fare qualche precisazione prima di parlare della radio e quindi di collocarla in questo scenario. Perché in realtà la questione è molto complessa, gli anni 30 sono degli anni molto, molto complessi, secondo me semplificare paradossalmente non aiuta a capire la posizione della Santa Sede in questo momento, in questo periodo storico, perché in effetti si trova a dover destreggiarsi in un certo senso con dei regimi totalitari di segno opposto per certi aspetti, se pensiamo alla Russia sovietica e poi invece ai regimi fascisti, però ha un atteggiamento diverso verso gli uni e l'altro, no? E allora uno dice: ma come? Allora, innanzitutto sappiamo che il più grande nemico, diciamo, della Chiesa cattolica in questi decenni è il comunismo. E quindi anche quando la Santa Sede, la Chiesa, viene a patti con il fascismo e con il nazionalsocialismo successivamente, bisogna tener conto di questo, perché altrimenti non si capisce, perché appunto, come giustamente hai detto, poi c'è la Mi Brennen der Sorge che in qualche modo invece cambia la politica di Pio XI. E allora perché prima fa i concordati con i fascismi e poi invece cambia la politica? Perché inizialmente Pio XI pensa che effettivamente Hitler, per esempio, possa essere un baluardo contro la diffusione del comunismo in Germania e poi in Europa. E quindi fa firmare da Pacelli il concordato con il Terzo Reich. Questo concordato che doveva servire in un certo senso a tutelare, a garantire i diritti, la presenza della Chiesa cattolica in Germania. Peccato che all'indomani della firma Hitler cominci subito a violarlo e, come sappiamo, cominciano anni di soprusi, di violenze anche contro i cattolici. Stessa cosa vale per il fascismo, ma lì è ancora diverso perché col fascismo effettivamente aveva qualche cosa in comune, ma di questo forse non è il caso di parlare adesso. La Mi Brennen der Sorge è un'enciclica effettivamente molto importante perché dopo anni appunto di violenze e di violazione del concordato in Germania, Pio XI decide di emanare questa enciclica che, attenzione, viene scritta, anzi redatta nella sua versione definitiva da Pacelli, appunto il suo segretario di Stato futuro Pio XII. Ed è un'enciclica importante, interessante anche come si riesce a farla arrivare in Germania senza che diciamo il governo se ne accorga, il nazismo, il governo insomma, nazionalsocialista se ne accorga e viene letta dai pulpiti in Germania. Però è un'enciclica che non condanna in toto il nazionalsocialismo, condanna alcune parti, diciamo, della sua Weltanschauung, della sua ideologia, che sono espressamente, apertamente anticristiane. Qualcosa rimane fuori, come per esempio l'antisemitismo, come per esempio le leggi razziali. Insomma, perché tutta questa premessa? Perché, insomma, diciamo, i rapporti tra la Santa Sede, il governo di Hitler e quello di Mussolini sono rapporti molto particolari, molto difficili, segnati appunto da, come dire, a volte avvicinamenti, ma anche poi allontanamenti. La Mi Brennen der Sorge non so fino a che punto, costituisca una svolta, perché, dopo 2 anni Pio XI morirà e la prima cosa che fa Pio XII quando sale il soglio pontificio sarà andare a recuperare quel rapporto con Hitler che, o almeno con il governo nazista che si era in qualche modo incrinato con il pontefice precedente. In tutto questo scenario, come collochiamo? Dove collochiamo Radio Vaticana? Ecco, ed è qui che secondo me nasce l'importanza e la particolarità di questa radio, perché allora, se noi diciamo, pensiamo a Radio Vaticana, pensiamo alla radio del Papa, pensiamo che sia la radio ufficiale della Santa Sede, che quindi sia espressione del pensiero del pontefice, eccetera. In realtà vedremo magari nel corso di questa intervista che non è proprio così. Però in questi primi anni di radiodiffusione, quindi siamo intorno al 36, 37, 38, beh, lì ci sono dei temi che vengono toccati che sono molto importanti. C'è per esempio l'anticomunismo, quindi permane, no, l'idea che il nemico acerrimo della Chiesa sia l'anticomunismo e quindi bisognava combattere ad armi pari con il regime, diciamo, sovietico e quindi utilizzando la radio come i russi facevano e quindi con la, attraverso la radio combattere il comunismo. Ma serviva anche, ci sono diverse trasmissioni, anche a denunciare quanto stava accadendo ai cattolici in Germania, al punto che c'è una trasmissione che mi ha sempre molto colpito, perché poi non ho trovato altre tracce di questo. In una trasmissione addirittura si viene a mettere in discussione il concordato con Hitler. Come dire, se continuano così, se continuano a diciamo a oltraggiare i cattolici e le istituzioni cattoliche in Germania, si può mettere in discussione il concordato con Hitler. E allo stesso tempo poi si proponeva una, diciamo, terza via tra il comunismo e il nazionalsocialismo, che era poi la dottrina sociale cristiana. Quindi queste trasmissioni servono anche a veicolare un'alternativa cristiana a questo che vi ho appena raccontato. La conduzione della radio venne affidata ai gesuiti. Il suo primo direttore fu padre Giuseppe Gianfranceschi, affascinante figura di teologo, filosofo e scienziato. Anche lui aveva una conoscenza personale con Guglielmo Marconi, con il quale aveva studiato la trasmissione delle microonde. Per molti versi la sua figura ricorda quella di padre Landel de Mura, il sacerdote che molti in Brasile considerano l'inventore della radio. Amico del generale Nobile, aveva partecipato in veste sia di cappellano che di scienziato alla spedizione del dirigibile Italia, quella che precedette il disastro sul PAC del 1928. Ci può dire quale fu l'approccio di Gianfranceschi al lancio della Radio Vaticana? Con quali difficoltà dovette confrontarsi nei suoi pochi anni di conduzione? Ricordiamo che Gianfranceschi poi morì nel 1934. Beh, siamo proprio ai primissimi anni, quindi tra il 31 e il 34 sono i primi anni di trasmissioni che ancora non sono delle vere e proprie trasmissioni, sono più che altro delle prove tecniche, se vogliamo. Venivano letti alcuni articoli di giornale, veniva fatta una trasmissione che era in realtà la lettura in latino di alcuni testi scritti peraltro dallo stesso Gianfranceschi, quindi di natura scientifica, ecco. Quindi diciamo che arrivavano anche molte lamentele, perché non c'era sto grande interesse per questi temi. Ed è proprio grazie al fatto che in Vaticano arrivano lettere anche attraverso i nunzi o i vescovi, per esempio mi viene in mente il cardinale vescovo di Monaco che va in segreteria di Stato e dice: ma insomma in Germania però noi avremo bisogno di qualcosa di più sostanzioso, anche perché appunto, visto che i cattolici cominciano ad avere sempre meno libertà, almeno attraverso la radio si vogliono avere notizie del mondo cattolico, ecco. Quindi Gianfranceschi più che altro si scontra con le difficoltà tecniche che ovviamente ci sono all'inizio dei primi anni di vita, insomma, di Radio Vaticana. Però è ovviamente stato un passaggio importante. Lui era della Pontificia Accademia delle Scienze e infatti Radio Vaticana inizialmente viene affidata proprio a questo organismo della Santa Sede, proprio perché si dovevano curare soprattutto gli aspetti scientifici e tecnologici prima di pensare alla radiodiffusione. Beatissimo Padre, risuona ancora su tutta la terra l'eco della vostra augusta parola. Forse le onde eteree modulate dalla voce del Sommo Pontefice si propagano ancora attraverso gli spazi, ma la vostra risuona ancor meglio nel petto di tutti i fedeli che hanno avuto la fortuna di ascoltare. Vibra ancora il loro cuore come vibra il nostro per la emozione con cui hanno ascoltato il vostro augurio di pace celeste. Pio XI muore all'inizio del 1939 e il suo successore, Eugenio Pacelli, che prenderà il nome di Pio XII, cambia completamente stile. Il diplomatico che è stato l'artefice della linea concordataria con diversi stati europei adotta una linea di maggior prudenza nei confronti di Italia e Germania, mentre i venti di guerra iniziano nuovamente a soffiare in Europa. fino ad arrivare a quel settembre 1939 che segnerà l'inizio del secondo conflitto mondiale. Il 24 agosto, proprio attraverso i microfoni della Radio Vaticana, Pio XII lancia il proprio accorato appello per la pace. Nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. Ritornino gli uomini a comprendersi, riprendano a trattare, trattando con buona volontà e con rispetto dei reciproci diritti, si accorgeranno che ai sinceri e fattivi negoziati non è mai precluso un onorevole successo. Sì, è un discorso effettivamente importante, è un radiomessaggio, quindi appunto proprio utilizza la radio per far arrivare questo messaggio in modo più, diciamo, insomma, per arrivare non soltanto ai governanti, ma anche ai popoli che sono in ascolto, ai cattolici che sono in ascolto in tutta Europa. È un messaggio che è molto famoso soprattutto per la parte in cui dice, in cui invita i futuri belligeranti a deporre a deporre le armi, nel senso l'invita a non ricorrere alle armi come modo per risolvere le questioni, i contenziosi, insomma, che si sono aperti in quei mesi, e dice nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. Quindi è veramente un appello affinché si possano risolvere le questioni aperte con l'arma, diciamo, della diplomazia e non quella, diciamo, della guerra guerreggiata, ecco. Si tratta di un discorso forte, molto forte, ma purtroppo inascoltato. Vogliamo partire da qui per definire l'approccio di Pio XII al mezzo radiofonico e all'impostazione che poi ne darà successivamente nel corso della Seconda Guerra Mondiale? Sì, ecco, come dicevo prima, come accennavo prima, anche Pacelli, anzi direi soprattutto Pacelli, quindi Pio XII, è un uomo molto colto e molto incuriosito dalla tecnica e dalla tecnologia, quindi anche lui, come suo predecessore, decide di non solo far continuare il funzionamento della radio, ma di potenziarlo ove possibile. Infatti mi ricordo che c'è una frase che lui dice appena salito a soglio pontificio, dice: continuare in tutto, quindi anche appunto nelle trasmissioni radio. Ecco, è chiaro che lui capisce, perché è un uomo appunto estremamente colto, estremamente intelligente, capisce di avere per le mani un mezzo importante, un mezzo potente. Non sa però ancora bene come usarlo, ma del resto, un po' per la sua indole, diciamo, un po' prudente, ecco, ma non so, per questo aspetto caratteriale che di formazione che lo porterà poi anche a compiere delle scelte importanti durante la guerra, ma diciamo che proprio davvero non si sa come usarlo, perché il mezzo radio è un mezzo molto particolare, è un mezzo che io ho definito fluido, nel senso che ha questa grande potenzialità di far arrivare la voce ovunque e di essere ascoltata ovunque, anche da chi non vuole sentire, perché arriva prepotentemente alle orecchie, no? Anche se uno non è attento. Però diciamo che il messaggio muore nel momento in cui viene detto, perché se non c'è lì qualcuno che prende nota, appunto, come poi è successo, di cui poi magari parleremo, ecco, svanisce, il messaggio svanisce nel momento in cui viene detto. Perché appunto non c'erano potenti mezzi come abbiamo noi oggi di registrazione, eccetera. Svaniva. Quindi bisognava che qualcuno fosse all'ascolto, ecco. E però questo comportava tutta una serie di problemi per la Santa Sede, perché prima di tutto bisognava stabilire, appunto, la radio è o non è la radio ufficiale del Vaticano. E qui già diceva no. Non è la radio ufficiale del Papa. Perché? Perché ovviamente loro si volevano riservare di poter smentire qualsiasi cosa venisse detta da questa radio. che era appunto affidata ai gesuiti, ma sappiamo bene che i gesuiti sono un ordine che è molto legato al pontefice. E soprattutto è strano, no, dire, ma com'è possibile che una radio che si chiama Radio Vaticana non sia controllata dal Vaticano, appunto. Ecco, in realtà è particolare anche il rapporto che ha con la Segreteria di Stato, anche questa è opera di Pio XII, nel senso che inizialmente sembra davvero che sia abbastanza indipendente. Poi quando cominciano, per esempio, i diplomatici come l'ambasciatore tedesco presso la Santa Sede a lamentarsi delle trasmissioni di Radio Vaticana, si reca proprio in Segreteria di Stato a lamentarsi delle trasmissioni antinaziste di Radio Vaticana, allora lì davvero si capisce la potenza di questa radio, e allora a quel punto ci sarà un controllo più stretto, diciamo siamo attorno al novembre del 1940, comincia un controllo più stretto da parte della Segreteria di Stato, a un certo punto poi verranno introdotti dei censori nominati proprio dalla Segreteria di Stato e a quel punto davvero passerà sotto, diciamo, il controllo, tra virgolette, del Vaticano. Però ecco, è un rapporto molto particolare. Pio XII capisce proprio durante la guerra che può utilizzare questa radio non soltanto come mezzo di apostolato, non soltanto come mezzo di propaganda, ma anche come mezzo diplomatico, quindi per far arrivare alcuni messaggi non soltanto ai cattolici, quindi non soltanto al popolo, ma anche ai governanti. La Radio Vaticana trasmetteva in varie lingue, ma il rapporto con il mondo francofono fu particolarmente complesso. Come è noto, dopo la sconfitta francese del 1940, la parte settentrionale del territorio venne occupata militarmente dalle truppe tedesche, mentre nella parte meridionale venne costituito uno stato fantoccio e collaborazionista della Germania, denominato Stato francese, conosciuto ai più come Repubblica di Vichy. La parte più tradizionalista dei cattolici francesi, sostenuta da una buona parte della gerarchia ecclesiastica, si schierò con il regime di Pétain, mentre un gran numero di cittadini e sacerdoti aderirono al movimento resistenziale. Una sola religione e due modi diametralmente opposti di interpretarla. Era inevitabile che le trasmissioni dovessero in qualche modo risentirne. Lei pone un accento particolare sulla vicenda francofona della Radio Vaticana, quindi potrebbe parlarci dell'esperienza della Radio Vaticana e della figura di padre Emmanuel Mistien che sono al centro di questa vicenda? Sì, ecco, è vero, la vicenda francese è un caso, diciamo, non soltanto interessante ma anche molto particolare nell'ambito della mia ricerca, perché sostanzialmente c'è un problema di fonti. Non ci sono registrazioni sonore delle trasmissioni di Radio Vaticana di questi anni ed è infatti il motivo per cui molti storici sono stati scoraggiati dall'intraprendere una ricerca storica su Radio Vaticana, perché effettivamente non ci sono fonti sonore, quindi noi non sappiamo, non abbiamo mai sentito la voce di questi speaker o come venivano chiamati i locutori della Radio Vaticana, come appunto non conosciamo la voce di Mistien. Però che cosa abbiamo? Magari poi se c'è l'opportunità vi racconto anche un po' come è nata questa ricerca e quindi mi entrerò poi nel dettaglio delle fonti. Ma nel caso francese invece noi abbiamo un corpus documentario che è fantastico, perché vi racconto brevemente la storia di queste trasmissioni. Dal Vaticano ci sono, tra le varie lingue in cui trasmette Radio Vaticana, c'è anche naturalmente il francese, e per il francese venne chiamato nel settembre-ottobre del 39 questo padre belga, Emmanuel Mistien, che è una figura estremamente interessante. Io sto scrivendo peraltro un libro proprio su di lui, sto cercando di ricostruire la sua biografia. Questo gesuita che comincia a lavorare alla radio appunto nell'autunno del 39, ma è a partire dall'occupazione tedesca della Francia e quindi dalla formazione del regime di Vichy che cominciano, come dire, i francesi cominciano a interessarsi di più di queste trasmissioni di Mistien. E in particolare c'è un collegio di gesuiti ad Avignone che è in ascolto di Radio Vaticana e comincia a partire da giugno del 40 a trascrivere le trasmissioni di Mistien, a trascrivere quello che lui diceva alla radio. Questi testi vennero poi raccolti alcune figure, diciamo, della resistenza cristiana che si stava formando nel sud della Francia, vennero raccolti, vennero stampati e diffusi clandestinamente con il titolo appunto de La Voix du Vatican, quindi la voce del Vaticano. Insomma, le trasmissioni di Mistien diventano uno dei primi giornali clandestini della resistenza cristiana francese. E allora, fortunatamente noi abbiamo questo corpus di scritti, sono in tutto una trentina di numeri in cui appunto troviamo i testi di Mistien e sono effettivamente dei testi molto molto interessanti, molto particolari, perché se inizialmente Mistien sembra in qualche modo, come appunto la maggior parte dei cattolici dell'epoca, avallare il regime peteniano di Petain, progressivamente si rende conto di quanto anche il regime di Vichy non possa far valere la causa cristiana. E allora ci sono moltissimi argomenti che vengono affrontati da Mistien, tra cui mi piace ricordare anche qualche trasmissione antirazzista e, se vogliamo, di opposizione a un antisemitismo dilagante. Noi sappiamo che anche in Francia vennero presto introdotte le leggi razziali antisemite. Ecco, e quindi voglio dire, è un corpus documentario davvero importante, che attesta una posizione che, se vogliamo, è un po' dissonante rispetto, come dicevi tu prima, alla chiesa ufficiale, rispetto alla gerarchia ufficiale. La cosa particolare è che lui stava in Vaticano, anche perché dopo che i tedeschi invadono il Belgio, lui è costretto a ritirarsi, a rifugiarsi in Vaticano. E tra l'altro viene a contatto con numerosi ambasciatori che a loro volta si sono dovuti rifugiare in Vaticano e tra l'altro alloggiavano a Santa Marta, dove adesso alloggia l'attuale pontefice. Ecco. Quindi davvero una vicenda interessante che fa vedere, secondo me, la cosa più importante, che fa vedere una differenza all'interno appunto della Chiesa Cattolica, ma anche del Vaticano stesso, di posizioni, cioè non tutti erano schiacciati sulle posizioni di Pio XII, anzi Mistien era uno di quelli che sosteneva che Pio XII doveva parlare, doveva prendere parola contro i soprusi, contro le violenze del nazionalsocialismo. Ma a un certo punto padre Mistien viene messo a tacere, la voce deve tacere. Esatto, certo la voce, punto. esattamente, anche questa è una vicenda che sto cercando di ricostruire con i nuovi documenti messi a disposizione dall'apertura degli archivi vaticani ai fondi relativi al pontificato di Pio XII, perché è vero che all'interno del Vaticano lui ha naturalmente tutta una serie di persone che lo contrastano, che contrastano il suo modo di lavorare. Allora lui comincia a protestare, va dal superiore generale dei gesuiti, che fino al 42 lo protegge, poi invece anche lì troverà delle difficoltà, andrà da Tardini, insomma, da i vari, come dire, cercherà insomma all'interno del Vaticano un appoggio, e minacciando sempre di volersene andare. Lui a un certo punto dice: io me ne vado, se non posso dire quello che voglio io me ne vado. E a quel punto è interessante, perché è Pio XII che non vuole che lui se ne vada. E allora anche qui è interessante la posizione del pontefice, che da una parte lo mette a tacere, perché viene affidato un censore che fa sì che lui faccia trasmissioni molto diverse da quelle che vi ho raccontato prima, però non lo caccia. E allora perché non lo caccia? Non lo so, insomma, anche questo è un qualcosa che va indagato meglio, che va capito meglio della posizione di Pio XII. Come accennato nell'introduzione, nel corso dell'intera durata del secondo conflitto mondiale, la Radio Vaticana fu oggetto di costante controllo da parte delle cancellerie delle nazioni belligeranti. Le trasmissioni venivano ascoltate e trascritte, e non di rado, quando i contenuti risultavano scomodi, venivano severamente disturbate. Goebbels, che della propaganda via radio era stato il precursore, avrebbe volentieri fatto tacere con metodi drastici questa voce. In effetti, si arrivò anche a un tentativo piuttosto maldestro e sul quale non è mai stata fatta piena luce, ma pare che furono i fascisti a farlo, di distruggere gli impianti all'interno della città del Vaticano con un aereo che sganciò 5 bombe che però mancarono il bersaglio. E torniamo proprio all'ora del bombardamento. Erano le 20:10 del 5 novembre 1943. 5 bombe venivano sganciate sul territorio del Vaticano. Una inesplosa, 4 esplose sul corridoio da dietro la Basilica di San Pietro. Infatti sono stati frantumati diverse vetrate della Basilica di San Pietro nella parte posteriore. Quindi il corridoio che sale va verso la stazione ferroviaria. Il racconto di questa guerra diplomatica, parallela a quella combattuta sui campi di battaglia, costituisce un altro dei punti di forza del saggio. Quali sono le battaglie cruciali di questa guerra e in quale modo la Radio Vaticana alla fine ne esce senza essere annientata? La paternità di queste bombe ancora non è chiarita, come molti dei bombardamenti che avvennero sulle città italiane. Però ci sono delle note di Monsignor Tardini che ci raccontano un pochino di quei momenti, di quegli istanti in cui appunto viene appunto esplosa questa bomba e che sfiora, diciamo, i locali della radio, e dice: per poco, insomma, non mi colpivano, per poco non ci rimanevo, insomma, ecco. Certo, sono anni che marcano un cambiamento anche proprio nelle trasmissioni di Radio Vaticana, perché fino, diciamo, grosso modo al 42 vengono affrontati gli argomenti più disparati. Non so, per esempio, appunto, la questione della persecuzione dei cattolici nei paesi occupati dai nazisti. Si cerca in tutti i modi di chiarire, di attestare, di diffondere l'idea che comunque il Vaticano è imparziale, che la Santa Sede è imparziale. Ci sono trasmissioni anticomuniste, ci sono trasmissioni che invece elogiano in un certo modo la Spagna di Franco, quindi i regimi, insomma, autoritari. Insomma, sono trasmissioni che, ovviamente, ci sono anche quelle di carattere più religioso, ma insomma sono trasmissioni che hanno dei contenuti e che possono avere un qualche interesse, che possono suscitare un qualche interesse alle persone in ascolto, ai cattolici in ascolto. Dopo l'occupazione tedesca di Roma le cose cambiano effettivamente, c'è proprio un cambiamento direi sostanziale. Le trasmissioni intanto sono ridotte. Anche, diciamo, se prima duravano, che ne so, una mezz'ora, adesso durano 15 minuti, ma anche poi i contenuti sono squisitamente di carattere religioso, sono per lo più letture di articoli dell'Osservatore Romano, quindi diciamo che non rappresenta anche per lo storico, se vogliamo, un interesse come quello suscitato negli anni precedenti. Però sono comunque importanti, perché uno può dire: perché non l'hanno soppressa? Perché infatti, voglio dire, il Papa poteva tranquillamente chiudere le trasmissioni, almeno per quel periodo, anche perché le minacce erano continue da parte dei tedeschi. Però si vuole che le trasmissioni continuino, ridotte, senza contenuti, ma le trasmissioni continuano. Ecco, quindi anche su questo bisognerà interrogarsi, sul perché. Il Papa vuole che comunque Radio Vaticana vada avanti a trasmettere. Clima cambia con la liberazione di Roma nel 1944. Il 24 dicembre, quindi la vigilia di Natale, con Roma liberata, ma con la guerra che ancora insanguina nel resto della penisola, Pio XII pronuncia il suo sesto radiomessaggio natalizio dalla Radio Vaticana. E per la prima volta viene pronunciata la parola democrazia. In questo messaggio il Papa afferma che se vi fosse stata la possibilità di un controllo popolare sui poteri pubblici, non si sarebbe verificata la tragedia della guerra. È un'affermazione importante, in qualche modo anche programmatica per il mondo che verrà dopo. Quindi il Vaticano comincia a interessarsi anche a quello che sarà il dopoguerra e gli assetti politici del dopoguerra. Sì, sì, è interessante questo punto, che però insomma va precisato anche questo, nel senso che è vero che il Papa parla di democrazia e ne parla per la prima volta. Intanto dobbiamo dire che tradizionalmente la Chiesa non preferisce nessuna forma di governo. Questo l'aveva detto chiaramente Leone XIII in alcune encicliche della fine dell'Ottocento. Cioè, a che cosa interessa la Chiesa? La Chiesa interessa che vengano salvaguardati, che vengano tutelati i diritti della Chiesa. E quindi non importa quale forma di governo uno Stato si vuole dare, purché vengano appunto tutelati questi diritti. E quindi non aveva mai espresso una preferenza per la democrazia, però ovviamente la Seconda Guerra Mondiale apporta dei cambiamenti, per cui nel pensare, nel progettare un dopoguerra, Pio XII arriva appunto a dire che appunto è preferibile il sistema democratico. Ma attenzione, perché nella frase che lui pronuncia ci sono due aggettivi che sono qualificanti e significativi, perché lui dice la vera e sana democrazia, quindi non la democrazia, ma una democrazia che sia vera e sana, e quindi in qualche modo delimita il significato di questa parola, che non è la democrazia non è preferita tanto come forma di governo, perché di nuovo la Chiesa non si esprime sulle forme di governo, ma perché la democrazia in quel momento è, diciamo, portatrice dei principi umanistici, ideali, che sono postulati dalla legge naturale in consonanza con lo spirito evangelico. Quindi di nuovo la Santa Sede, come dire, va bene la democrazia, ma soltanto nel momento in cui la democrazia è il migliore, il preferibile dei sistemi che abbiamo sperimentato fino a quel momento, ma se tutela i diritti dei cristiani. E poi ovviamente Pio XII darà un suo indirizzo, soprattutto in Italia, storia nota, ma insomma lui voleva creare una nuova cristianità. Quindi di nuovo diciamo c'è un ideale che viene proposto, un ideale cristiano che viene proposto di società da parte di Pio XII. Ecco, al fine, terminata questa guerra che durante quasi 6 anni ha tenuto l'Europa nella stretta delle più atroci sofferenze e delle più amare tristezze. Un grido di riconoscenza umile e ardente sgorga dal più profondo del nostro cuore verso il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione. ma il nostro cantico di azioni di grazia si accompagna con una preghiera supplichevole per implorare dalla onnipotenza e dalla bontà divina il termine secondo giustizia delle lotte sanguinose anche nell'estremo oriente. Raffaella Perin, siamo arrivati al termine di questa nostra interessante conversazione. Quindi raccontaci un po' come sei arrivata ad affrontare questo particolare tema storico e come ti sei approcciata poi alla ricerca delle fonti. Dunque, io ho iniziato a interessarmi di Rete Vaticana nel 2009 perché ho partecipato a un workshop sui mezzi di comunicazione e la Shoah, organizzato da Yad Vashem, che è il museo dell'Olocausto a Gerusalemme. In quell'occasione mi chiesero di provare a fare una relazione su Radio Vaticana e la Shoah, cioè loro si chiedevano sostanzialmente: ma va bene, sappiamo che il Papa non ha parlato, sappiamo che i mezzi di stampa hanno taciuto, ma la radio dal canto suo è riuscita a far trapelare qualcosa, ha dato notizia di quello che stava avvenendo agli ebrei d'Europa? Ecco, allora lì mi sono trovata di fronte a una ricerca che per me non si poteva fare, nel senso che non c'erano fonti. L'unica fonte era appunto questo corpus di testi francesi, ma che erano già stati in parte studiati da una studiosa francese negli anni 70. Ma insomma, Radio Vaticana trasmetteva in tantissime lingue ed era incredibile come davvero non si potesse ricostruire una storia di una radio che, insomma, per quanto piccola, comunque era espressione del Vaticano, quindi di un'istituzione universalmente riconosciuta e universalmente importante a livello internazionale. Ecco. Altri storici ci avevano provato, ed effettivamente avevano dovuto scontrarsi anche loro con l'impossibilità di reperire delle fonti che potessero dirci che cosa veniva trasmesso durante la guerra da Radio Vaticana. Allora io, che non lo so perché forse sono un po' masochista, ma queste battaglie, queste sfide un po' così mi solleticano, ho voluto comunque portare avanti questa ricerca e andai in Inghilterra, all'archivio della BBC, ai written archives, quindi agli archivi, diciamo, cartacei della BBC, per chiedere, perché sapevo, insomma, che comunque qualche collegamento. Ecco, allora non sapevo delle trascrizioni, io non lo sapevo, l'ho scoperto lì. Quando ho scoperto che la BBC, per conto del governo inglese, monitorava quotidianamente la Radio Vaticana e creava dei registi, delle trasmissioni, voi potete capire la gioia. Ecco, penso che se ci sono degli storici in ascolto, ecco, io ho pianto quel giorno dalla felicità, perché ci si è aperto un mondo, perché dal non avere alcuna fonte a trovarmi di fronte a un registro quotidiano in diverse lingue di quello che veniva trasmesso da Radio Vaticana, beh, è stato ovviamente l'apoteosi dello storico. Certo, e quindi lì ho cominciato a fare, e poi da lì ho scoperto che in realtà non era solo la BBC, ma anche ovviamente il governo tedesco, che aveva allestito un sistema di monitoraggio simile, per cui anche i tedeschi ascoltavano Radio Vaticana. Ed è interessante perché, appunto, una piccola radio, ma che era, come dire, era all'attenzione di questi sistemi di monitoraggio, perché naturalmente ai governi interessava sapere da che parte stesse il Vaticano, e quindi utilizzavano le trasmissioni di Radio Vaticana, ognuno ovviamente, per la contropropaganda. Quindi gli inglesi contro i tedeschi, i tedeschi contro gli inglesi, salvo poi entrambi andare a lamentarsi con la segreteria di Stato se Radio Vaticana trasmetteva qualcosa che non, a loro non andava bene. Quindi davvero è una storia, secondo me, molto affascinante, di questi intrecci tra Vaticano e governi dei paesi in guerra. Ecco, quindi da lì è partita il mio interesse per la radio. Allora, ringraziamo Raffaella Perin per questa bellissima conversazione, molto interessante oltretutto, che riguardava il suo libro pubblicato nel 2017, La radio del Papa, propaganda e diplomazia nella Seconda Guerra Mondiale, per Il Mulino. Quindi chi volesse approfondire può leggere questo saggio, che è veramente molto molto bello, molto interessante. Raffaella, ti ringraziamo per la tua cortesia, per la tua competenza e per la tua gentilezza. Grazie a te, grazie a tutti quelli che avranno la pazienza di ascoltare, e spero, insomma, di poter tornare ancora a raccontare qualche storia. Perché, insomma, credo che... Visto che hai già in programma alcune altre iniziative editoriali, ci risentiremo in futuro e mi farebbe piacere. Ne riparleremo con vero piacere. Mi farebbe piacere, ti ringrazio molto anche delle domande molto intelligenti e puntuali, che mi hanno permesso di dire cose che a volte non si riescono a dire, perché sì, quando si scrive poi si complica, insomma, ci si rivolge soprattutto alla comunità scientifica, invece è importante anche cercare di rendere più fruibile anche questi concetti un po' più complessi, ecco. Grazie ancora, grazie a voi. Termina così il nostro radiodocumentario realizzato in occasione dei 90 anni della Radio Vaticana. Insieme alla professoressa Raffaella Perin e il suo saggio La Radio del Papa, abbiamo ricostruito le vicende relative a un periodo drammatico della nostra storia, avvalendoci di una serie di fonti che andiamo doverosamente a citare, partendo dall'articolo di padre Robert Graham, La Radio Vaticana tra Londra e Berlino, pubblicato dalla Civiltà Cattolica. A seguire la Radio Vatican, un articolo di René Bédarida, pubblicato dalla Rivista Storica della Chiesa di Francia. E infine Radio Catholique, un pamphlet del vescovo belga Louis Picard, pubblicato dalla casa editrice Rex nel 1931. Per quanto riguarda invece le fonti audio, abbiamo ascoltato delle registrazioni attuali come la Benedizione Urbi et Orbi, trasmessa dalla Radio Vaticana in onde corte il 4 aprile 2021, e un servizio di 10 anni fa, nel quale si presentava un libro dedicato al bombardamento del 1943. Mentre in quelle storiche abbiamo ascoltato estratti dei discorsi di Guglielmo Marconi, padre Gianfranceschi, Pio XI e Pio XII, giunte a noi attraverso gli archivi della Radio Vaticana e dell'Istituto Luce. La colonna sonora che ha accompagnato la nostra trasmissione comprendeva l'oratorio di Pasqua di Johann Sebastian Bach e la partita in do minore per liuto barocco dello stesso autore, il Magnificat di Claudio Monteverdi e il Sicut Cervus di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Un ringraziamento va infine a Daniela Pesoli per la sua preziosa collaborazione. Questo programma, come sempre, viene diffuso attraverso le frequenze di Radio Ernica sui 105.8 e 105.9 MHz in FM e su tutte le nostre piattaforme internet, a partire da www.radioernica.com. Francesco Cecconi vi ringrazia per il cortese ascolto e vi invita a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze. Siete sintonizzati su Radio Ernica. Buon ascolto. Radio Ernica, FM 105 900, www.radioernica.com.